Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 37 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino e oggi mercoledì 28 giugno dell'anno politico, non ce lo dimentichiamo mai, 2017, cerchiamo di non dimenticarselo mai. Diciamo, è entrata l'estate, stiamo bene, dai, fa caldo, però sì, vediamo le ferie per chi lavora e va in ferie nel periodo estivo, che in Italia è comunemente per la grande maggioranza delle persone così, anche se negli ultimi anni fra chi ha perso il lavoro purtroppo o chi ancora nemmeno lo ha trovato e cambio di abitudini sia delle aziende che delle persone lavoratrici porta in effetti le persone a viaggiare, ad essere in ferie un po' in ogni periodo dell'anno, però comunque l'estate comunque rimane il periodo dell'anno dove maggiormente le persone vanno in ferie e anche il vagabondo con questa 37esima puntata dichiara conclusa la prima stagione di Vagabondo in giro per il mondo e l'idea è quella di rivederci a settembre, però di qui è settembre, di acqua sotto i ponti ne passa, intanto abbiamo da arrivarci vivi a settembre perché qui si dà tutti per scontato quello che per scontato non è, quindi l'imponderabile non lo calcola mai nessuno, si fanno progetti a lungo raggio e poi magari succede un qualcosa a qualcuno per cui il vagabondo non sarà più in onda, che ne so, magari la radio chiude, magari può succedere di tutto, quindi mettiamoci calmi a sedere, un bel respiro, programmiamo delle cose volentieri ma con un certo modo di fare, quindi la mia idea è questa qui. Poi, dal dire il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare, ormai sapete che i proverbi sono un po' una mia fissazione e di conseguenza questo proverbio proprio calza a pennello con questa mia cosa. Quindi l'idea mia è di tornare a settembre, però come si fa in negozio? In negozio se siamo a fine stagione, bene, allora saldi. Oggi saldi. Tratterò due argomenti invece di uno, quindi attenzione, cercherò di essere abbastanza breve per non tediarvi più di tanto, però ahimè oggi magari mi dovrete sopportare se ne avrete voglia per qualche minuto di più. Bene, partiamo subito da una cosa che mi era rimasta un po' in sospeso nelle ultime puntate. Sapete che due o tre puntate fa abbiamo trattato l'argomento delle aspettative. Ebbene sì, le aspettative che si fanno i nostri genitori nei nostri confronti è una delle aspettative principali. Le aspettative che noi stessi ci facciamo nei nostri confronti, anche quella è un'aspettativa molto importante, però rispetto a quella dei genitori, quella se uno riesce un attimino a metterci occhio magari la controlla pure. La terza aspettativa è devastante e è l'aspettativa che la popolazione, nel senso tutte le persone che ci conoscono, le persone che ci stanno intorno, che in qualche modo si relazionano con noi, non tutte magari, come sempre l'assoluto non esiste, ormai questo forse l'avrete imparato, ve lo dico quasi tutte le puntate, sono le aspettative che si fanno queste persone nei nostri confronti. Ad esempio, un esempio proprio calzante secondo me: dove vai in ferie quest'anno? Bene, io in ferie andrò in Messico. Ah, il Messico, io ci sono già stato, bellissimo, vedrai, vai di qui e vai di là e vai, che ne so, a Cancun e vai nel Chiapas e vai di sotto e vai di sopra e non andare nella capitale e vai nella capitale, ognuno ha da dirti la sua. Ognuno si crea la sua aspettativa riguardo, ad esempio, a questo viaggio fantomatico in Messico che tu ti stai accingendo a fare. Ma quello che non pensano è: ma io ho fatto il mio viaggio in Messico, non faccio mica il tuo. Ad esempio, cioè, te vai in Messico a questo punto pieno di aspettative che ti hanno instillato nella testa tutti quelli che ti hanno detto: ah, bello il Messico, bello. Te ti convinci che il Messico è bello, arrivi in Messico e ti fa cacare. E proprio ti fa cacare, oppure dici sì, carino, ma niente di che. E questo succede perché nella nostra testa ci siamo già fatti un film. È come quando leggiamo un libro, ad esempio, no? Lo scrittore bravo cosa fa? Lo scrittore bravo scrive un libro e permette al lettore del libro di immaginarsi, di visualizzare proprio con il suo cervello i personaggi, le situazioni, le emozioni, quello che succede, dove succede, come, quando e perché, praticamente, insomma. E quindi cosa succede? Tu ti fai il tuo film, ma il tuo film è diverso dalla realtà. Il tuo film è una tua proiezione, non è la realtà. Perché secondo voi spesso si dice: ah, ho visto quel film che è tratto da quel libro X, avevo letto il libro, il film è una schifo, una merda, il film proprio non mi è piaciuto per niente, il libro bellissimo, il film ha fatto cacare. Bene, ma perché ci diciamo questo? Perché ci succede questo? A me mi succede tantissimo questo. Io l'ho capito dopo un po', cioè all'inizio io non capivo perché mi succedeva questo, ma secondo me, ora poi io ho detto ho capito, ma non è detto che abbia capito, è la mia idea, poi magari non è la realtà, però quello, tu leggi un libro, ti immagini la tua scena, le tue emozioni, sì, la protagonista, la signora Winterthorpe dal ventaglio, sì, te le immagini, alta, bionda, mora, cioè. Poi guardi un film che è esclusivamente, cos'è un film? Non è nient'altro che l'immaginazione di un regista e di qualche sceneggiatore che hanno messo su pellicola la loro immaginazione di quel libro, e non è uguale alla tua, è per forza che la tua era più bella, era la tua, te l'hai rifatta te, non avevi mica delegato un'altra persona di fare la sceneggiatura di quel libro per te, l'avevi fatta te. È uguale, succede ad esempio con le vacanze, è la stessa cosa, te ne vai dove devi andare con l'idea che sia tutto bello, perché le persone che hai incontrato, sì, io ci sono stato, ho fatto, arrivi lì e fai la metà delle cose e ti sembrano anche brutte, poi magari dopo lo rielabori un po', dopo qualche mese, però non ti godi il momento, perché te il momento te l'hanno già fatto godere in anticipo, facendoti fare quel film, permettendoti di far partire quel film. Invece io sono stato in Messico e trovo uno che è stato in Messico, vai in Messico, bene, divertiti, vai, sistemato, e che ho da dirti del Messico, che ho da dirti? Cioè, boh, ti potrei dire: guarda, se ti capita di passare in quella città, in quella strada, e devi mangiare, vai a mangiare dalla trattoria lo zozzone piuttosto che dalla pescheria il pesce morto, perché alla trattoria lo zozzone si mangia meglio, cioè ci ho mangiato bene io. Però anche lì è lo stesso discorso, creo l'aspettativa a quella persona sulla trattoria, poi va alla trattoria, perché anche questo ci succede di continuo. Ah, sono stato a cena da Chez Maxime a Paris, ma che dici? Cioè, anche lì una cena, eh sì, è una cena, è vero. Ora, se io con la mia chiacchiera ti rovino magari la cena di una vacanza piuttosto che tutta la vacanza, già ho guadagnato molto tempo senza rovinarti. Però zitto, ma che chiacchieri a fare, ma che te ne frega cosa fa quello e cosa fa quell'altro, ma che te ne importa? E poi te sei andato da Chez Maxime, dalla Quinta Stella, e avevi la tua idea, avevi le tue sensazioni. Se la persona che farà quell'esperienza ce la mandi con le tue sensazioni dentro, la freghi in partenza, perché quella è destinata a fare un confronto fra le tue sensazioni raccontate a lui e le sue immaginazioni sulle tue sensazioni raccontate. Quindi è una terza, quarta mano di notizie, di informazioni che alla fine non valgono niente. Ma che te ne frega a te? Vai in Messico, ciao. Vai a cena da pizzeria lo zozzone nero, ciao. Vai, godi, divertiti, e poi mi dirai la tua idea, non prima, perché se me lo dici prima io ti creo un impiccio. Quindi cosa è che ci condiziona molto sulle aspettative? Gli altri, perché se le fanno di continuare, guarda, se è fidanzato con tizio, li vedo tanto bene insieme, come stanno bene insieme loro, oppure arriva un altro, io li vedo male, eppure sono gli stessi due, ma che sono? Uno li vede Dr. Jekyll e quell'altro li vede Mr. Hyde, perché ognuno ci sa la nostra razionalità, è normale questo. E quindi cosa succede? Ci facciamo questo discorso e roviniamo le situazioni alle persone, come ce le rovinano a noi. Quindi però ci viene normale. normale farlo, ci viene proprio di default di fare questo. E poi oggi nel mondo social è tutto un fare foto piatti, e uno fa la foto al crostino al sugo di fegatello, e uno fa la foto all'anatra all'arancia, e uno fa la foto alla carota perché magari è vegano, allora dice fa una foto a una carota, oppure a un maiale, sì ma vivo, perché io sono vegano, allora il maiale vivo. Ma cosa vi fotografate? Ma che siete diventati tutti l'Oliviero Toscani? Ma pochissimo senso, uno lo può fare per svago, dice, ma che senso ha mettere la foto così? Sono qui a cena dalla macelleria Pippa Pappa e guarda che bella bistecca fiorentina con un dito di sangue sopra, ma che cavolo ce ne frega a noi? Buonissimo, poi uno va da Pippa Pappa, vede la foto della bistecca, se la immagina a quel modo, gli arriva una bistecca un attimo diversa, già mangiando con gli occhi gli piace di meno. Oppure per fare lo sborone, sono stato da Pippa Pappa, buonissimo, molto più buono del tuo, ma che ne sai quello lì come l'ha mangiato? Ah sì, perché ci sono anche quelli. Sei stato in Messico, ormai andiamo tutti in Messico, come direbbe Vasco Rossi, anzi Vasco Rossi l'ha proprio detto, ci ha pure fatto i soldi. E in ogni caso, tutti in Messico quest'anno, sì, perché, ma te sei stato lì? Ah no, io ho fatto questo, io ho fatto anche quell'altro, io sono andato anche lì sotto, io mi sono anche buttato dagli alberi, io ho fatto anche le liane, io ho fatto questo, io, e te provi a dirgli qualcosa e questo continua, ah no, perché io ho fatto così, io ho fatto così, ma che cacchio me ne frega a me, ma io ho fatto la mia vacanza in Messico e mi sono divertito alla mia maniera, anche perché io mi diverto in un modo e te ti diverti in un altro, quindi ma che me ne frega a me di fare quello che hai fatto te perché te mi dici di esserti divertito, ma non ha senso, ma non ha senso. Bene, mi sono anche un pochino infervorato e fa molto caldo, quindi sto anche un po' sudando, però partiamo con la seconda parte della... siamo a saldi, no? Siamo a saldi, è l'ultima puntata della prima stagione del Vagabondo, quindi siamo a saldi. E perché questa ce l'ho messa? Perché me l'hanno appena detta, no? Boh, ci ho pensato subito e mi è venuto subito un pensiero così. Dice, ma lo sai quest'anno, dice, al Palio di Siena proibiscono di entrare in piazza ai ragazzi sotto 12 anni. Bene, dico io, e perché? Dice, ma per la sicurezza, sì, va bene, ma il Palio di Siena e sarà centinaia d'anni che c'è, che lo fanno, e questa sicurezza finora ce ne siamo fregate. E poi che vuol dire 12 anni? Guarda, tanto uno dice, ma Gardaland, in questa giostra i bambini sotto un metro non ci possono montare, ha un senso, perché per la sicurezza della giostra proprio, e dice, i ragazzi sotto 12 anni, ma se, perché? Ma se un ragazzo ha 12 anni, che oggi voi sapete che gli danno i biberon ai ragazzi quando nascono, a 12 anni c'è qualcuno, un Marco Antonio è alto 20 cm più di me e con due spalle tante potrebbe fare già il rugbista di professione, e c'è quello che problema c'ha se c'è anche un po' di calca in piazza, sì, o poi magari arriva il mingherlino, che ne so, il figlio del Fantino, e lui sarà basso perché i Fantini sono tutti piccini e quindi proprio di conformazione sono bassi, sono mingherlini, altrimenti non sarebbero Fantini, magari i figlioli dei Fantini per genetica vengono un pochino più piccini di quegli altri, invece c'è il figliolo del Fantino non ci può entrare in piazza. Ma io dico, ma come mai? Ma non vi sembra a voi? Ora poi qualche tempo fa, addirittura per la giostra ad Arezzo, una festa normalissima, sì, c'è un po' di gente in piazza, ma costa anche un sacco di soldi il biglietto per entrare, figurati chi lo compra. Dice, gente ce n'è, è piena, è vero, ma è sempre stato così, ci vorrà metal detector nella piazza per la giostra. Ma poi ora ci sarà il calcio storico fiorentino, c'è stato 4 giorni fa rispetto a oggi, ma insomma, chi c'era? I militari, perché quanta gente ci sarà a vedere il calcio storia a Firenze? Poi sai, siamo a Firenze, patria dell'arte e tutto quanto, uno dei siti più preziosi dell'Italia, quindi se un terrorista o chiamato terrorista volesse fare qualcosa a Firenze, vedi, meglio momento di quello, pieno di gente e opere d'arte. Santa Croce solo la piazza è un'opera d'arte di suo. In ogni caso, dice, e allora, ma a me non lo so, io poi so un po', vedo i mostri, ho tutte le mie teorie su certe cose, però a me mi sembra un attimino che ci stiano un po' giocando a mettere la paura addosso alla gente, forse per farla uscire un po' meno di casa e imbambolarla ancora di più di fronte ad un PC o di fronte ad una televisione, ma non lo so, io me lo domando, poi effettivamente non sarà così, io anzi lo fanno per noi, io anzi li ringrazio e tutto quanto, mi sbaglio, non ho dubbi su questo, però a me mi viene un po' da pensarlo, insomma, mi sembra un barzelle. barzellette, dai, io non mi sembrano barzellette, boh, non è accettabile questa cosa alla fine. Dice, ma perché proibisci la piazza così, e proibisci di qui e proibisci di là, e poi anche per dire dove vivi è diventato tutto piano di telecamere con questa scusa della sicurezza. Dice, mettano le telecamere su secchi di su, dice, mettano le telecamere dietro gli angoli, negli usci. È vero, si vivono tempi diversi da quando erano giovani i nostri genitori, prima ancora i nostri nonni, quelli erano tempi diversi dove magari, boh sì, la gente dice io uscivo di casa e lasciavo le chiavi nella porta, non succedeva niente, oppure se stavo male la vicina mi faceva la spesa, oppure quello e quell'altro mi dava mano a pulire la casa. Però è vero, questi tempi non esistono più, e è vero che ci sono tempi in cui magari le tensioni sono un pochino più accentuate, ma le tensioni sono un pochino più accentuate. È vero che ci sono qualche bischero ogni tanto che fa degli atti un po' scellerati, diciamo, che sarebbe preferibile non fare, ma insomma i bischeri ci sono sempre stati, voglio dire, perché negli anni 70 ok, eri tranquillo a andare a giro per Milano ad esempio o per Roma, ne so, la bomba negli anni 80, il treno, erano terroristi anche quelli, erano di casa, erano terroristi di casa, dice, allora ci sembravano più buoni perché erano di casa, erano bianchi come noi, parlavano la nostra lingua. Oggi magari quello che ci spacciano per terrorista ce lo disegnano colorato con una lingua che non si capisce niente che dicano, e che tutti fidi di quello che dice la traduzione di chi la fa, perché ti fanno vedere uno la barba bla bla bla bla bla bla bla, dice sì, ha detto questo e quell'altro, ma poi va a controllare, chi lo sa che ha detto davvero quello. Quindi è un po' una cosa, si fa affidarsi bene, io mi fido. Ringrazio assolutamente tutti quelli che operano per noi, per il nostro bene e per la nostra vita, e stare sereni, in pace, in armonia nella vita. Però qualche domanda ogni tanto a me mi viene fuori, non so a voi, e mi auguro che sinceramente qualche domanda vi venga, perché magari una domanda viene a voi, una domanda viene a me, vi fate ognuno le vostre domande in dove voi siete in questo momento, e per risonanza morfica prima o poi gira arriverà la mia domanda a voi, soprattutto la risposta, e viceversa. E quindi, cari amici, era un saluto. Sono andato un po' più lungo, mi auguro che vi siate divertiti, mi auguro che vi abbiate ascoltato con piacere anche per quest'ultima puntata della prima stagione di Vagabondo in giro per il mondo, e essendo l'ultima puntata è anche l'ultimo appuntamento con il Cafone Vagabondo. E il Cafone Vagabondo di oggi chi è? O meglio, chi sono? Sì, perché oggi, siccome siamo a saldi anche del Cafone Vagabondo, i cafoni di oggi sono ben due nello stesso ambiente, nello stesso pezzo di strada. Uno è il ciclista, è quel ciclista che magari è effettivamente solo un amatore, un ciclista per passione, per magari stare un po' in forma, e fa benissimo, ma quando viaggia per la strada magari con un suo amico, con altri due o tre ciclisti, e si mettono tutti in orizzontale occupando la carreggiata, quando trovi quelle gruppate di 10 che ti tengono dietro e non riesci a superarli. Ora è vero che magari qualcuno può avere furia e qualcuno no, ma questo è un altro discorso, cioè state in fila per benino e uno poi vi passa accanto, è normale. Ma di contro chi è l'altro cafone? L'altro cafone è proprio quello che guida quella macchina, che magari inizia a suonare, che magari inizia a imprecare, apre il finestrino e fa il dito medio, e manda, fa il gesto dell'ombrello, e manda serenamente a fanculo i ciclisti, e gli passa di vicino mentre li supera per fargli sentire che lui con la macchina è grosso e quindi può permettersi anche di buttargli un picchio e buttarli in terra. Bravo bischero, e soprattutto bravo cafone, ma bravi cafoni tutti, cercate di essere un attimino più diligenti nelle strade in questa situazione, voi che andate in bicicletta e voi che, ahimè, vi trovate dietro ad un gruppo di ciclisti cafoni. Bene, cari amici, io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi fino a qua, puntata lunghissima, e sono stato molto felice però di averla registrata per voi. Mi auguro che questa mia felicità vi arrivi quello che vi ho trasmesso nelle 37 puntate del Vagabondo in giro per il mondo, solo la prima stagione, con l'augurio che ce ne sarà una seconda. Come sempre, siate saggi!